Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo con Claudia Bedogni di Satin Film che distribuirà il film A Quiet Passion di Terence Davis in uscita in sala il 14 giugno. Claudia, ben trovata. Ben trovato Federico e buonasera ai tuoi ascoltatori. Grazie sempre del cortese invito, è sempre un piacere essere con voi a presentare i nostri film. Mi dicevi anche del piacere di essere stata con Terence Davis. Assolutamente, due giorni meravigliosi, siamo rientrati oggi da Bari dove abbiamo presentato l'anteprima del film nell'ambito di registi fuori dagli schermi o dagli schemi, e devo dire che lui è veramente fuori dagli schemi, pur nel, così, in, questo suo, in questa sua eleganza di perfetto gentleman, devo dire che la sua cinematografia del resto ne è testimonianza, perché è una figura assolutamente ricca, densa, esuberante, straordinaria, si potrebbe ascoltare per ore, non si finisce mai veramente di essere incantati da tutto quello che ha da raccontare, e del resto i suoi film sono anche una testimonianza della sua forte personalità. In Italia lo avevamo conosciuto in maniera più diffusa con Voci lontane sempre presenti sul finire degli anni Ottanta. Esatto, però in realtà è un regista molto amato dalla critica, però poco conosciuto dal grande pubblico, e ci auguriamo proprio che invece con questo film, che per molti è il suo capolavoro assoluto perché è un po' la summa di tutto il lavoro fatto finora in tutti i suoi film, possa veramente arrivare a toccare il cuore di molti che potrebbero apprezzarlo non solo per le sue grandi capacità artistiche, ma anche proprio per la delicatezza nel raccontare e lasciare delle impronte molto forti, nel tracciare dei personaggi veramente indimenticabili, come in questo caso appunto il ritratto della grande, amata e famosissima poetessa Emily Dickinson. Ecco, come lo descriveresti brevemente il film? Ma il film, ecco, io credo che ciò che ha suscitato grande interesse da parte della critica, ma anche soprattutto da parte del pubblico, perché noi siamo l'ultimo paese a far uscire Quiet Passion, però devo dire che abbiamo raccolto proprio tutti gli umori, tutte le passioni, tutti i commenti di tutto il mondo su questo film, che unanimemente l'hanno descritto proprio un film incredibile, perché non tanto per l'originalità di raccontare la vita di Emily Dickinson, che di per sé non ha una grande originalità in termini di colpi di scena, ma in realtà proprio per il tono e la capacità nei dettagli di tratteggiare la complessità dell'animo di questa grandissima poetessa, che attraverso i suoi versi era capace di illustrare il suo mondo interiore in maniera magnifica, e che purtroppo è arrivata alla fama internazionale poi solamente dopo tanti anni è stata apprezzata, e lui è riuscito a tratteggiare con delicatezza, con eleganza visiva e con profondità proprio di dialogo, che in realtà spazia dall'humor più british, quindi dall'arguzia più forte, esilarante e travolgente, a momenti invece di grande intensità emotiva e anche di dramma molto forte, come del resto è stata la stessa esistenza della grande poetessa di Hamlet, anche se la maggior parte della sua vita l'ha trascorsa racchiusa all'interno delle per sua scelta delle mura domestiche e della sua tanto amata famiglia. Sì. Quindi è un film assolutamente molto importante, che mi consiglio veramente di vedere, perché è un film che emoziona tantissimo. Io infatti ho pianto, dico sempre che noi distributori siamo i primi spettatori, e alla fine ci siamo lasciati trasportare da questa storia meravigliosa e soprattutto dalle grandi interpretazioni, perché il film vanta interpretazioni incredibili, tra cui quella veramente inaspettata di una fantastica Cynthia Nixon, che tutti conosciamo come la folle Miranda di Sex and the City, che invece dà prova di essere un talento incredibile di umanità, di profondità, di cambiamento di registi, di straordinaria. Veramente credo che il pubblico avrà modo di apprezzarla assolutamente in pieno. Ho avuto modo di vederlo. Per quello che ho apprezzato del film, devo dire l'impianto teatrale girato in interni con grandi attori, come giustamente dicevi tu, e la capacità anche di rendere un'atmosfera di un periodo storico e di un luogo. Il ritratto di questa protagonista, ma non solo, anche di tutto ciò che la circonda, ossia vite non vissute poi alla fine, delle rigide convenzioni, del cattolicesimo bigotto, insomma, è come dicevi tu, anche degli acumi di spirito, soprattutto dal punto di vista della sua amica che poi si sposerà, insomma, che ha... Si sbaffa, Sì. certo. Insomma, tutti elementi che secondo me ne fanno veramente forse il suo capolavoro. Infatti, poi sai, ho sempre paura un po' a utilizzare la parola teatrale al cinema, perché sono, a parte essere linguaggi diversi, si pensa sempre che sia qualcosa di claustrofobico, di chiuso, no? Di rigido, mentre invece dal cinema ci si aspetta sempre passo, ritmo, velocità. Però mi sento di rassicurare, infatti, gli spettatori che avranno voglia di confrontarsi con questa storia, che saranno veramente travolti dal film, perché si abbandoneranno proprio alle vite dei personaggi e, posso almeno dalla mia esperienza, quando ho visto il film la prima volta, mi sembrava veramente di essere con loro. Con loro però non, pur nella fedeltà di una ricostruzione ottocentesca, nella modernità di un linguaggio che è veramente incredibile, perché comunque Emily Dickinson era una donna di grande modernità e lo scoprirete anche i motivi perché, no? Questa sua lotta per l'egualità, per l'uguaglianza, per essere comunque poter stare al fianco di un uomo con gli stessi diritti, con gli stessi riconoscimenti, e lei ha sofferto tantissimo per questo ed è stato anche forse il motivo per cui forse non si è mai sposata, perché ha preferito la rassicurante famiglia piuttosto che a stranieri che non conosceva e piuttosto di essere considerata solamente un oggetto da tenere in un angolo incapace di potersi esprimere. Sì. Claudia, in quante sale? Ma guarda, tante, devo dire che infatti quest'uscita, diciamo, non voglio usare la parola strategica, ma oggi la situazione del mercato costringe i piccoli distributori indipendenti come noi a tentare sempre ogni volta, come dire, a rischi nuovi, perché è un film che ovviamente, se uscito in piena stagione, rischiava di scontrarsi come sempre con le grandi proposte delle distribuzioni più agguerrite, quindi anche più forti sul mercato a livello di sale. Noi speriamo in questo periodo, abbiamo una bella uscita, veramente le sale migliori d'Italia, sono una sessantina di copie, che sono tante, e la stagione non aiuta, però noi contiamo sul fatto che veramente Emily Dickinson è amatissima e quindi ci sarà senz'altro la curiosità, ci auguriamo, da parte di chi, come ci dicono su Facebook, porta con sé nei propri viaggi le poesie o si addormenta con le sue poesie appunto al fianco, e così come invece i grandi stimatori di Terence Davis, così come semplicemente il pubblico che avrà voglia di conoscere invece un'artista che magari non, di cui ha sentito parlare ma che non aveva veramente conosciuto, o chi semplicemente ha voglia di ritirarsi nel fresco delle sale cinematografiche a dispetto dell'estate che è alle porte. Quindi insomma siamo fiduciosi, ci mettiamo come sempre una grande passione, un grande entusiasmo, e siamo felici che Terence comunque Davis abbia passato un paio di giorni con noi con tanto affetto da parte della stampa e da parte del pubblico che ha incontrato. Quindi vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Bene, ricordiamo il film A Quiet Passion di Terence Davis, in uscita in sala il 14 giugno. Un saluto e un ringraziamento a Claudia Bedogni di Satin Film che lo distribuisce. Claudia, un abbraccio e a presto. Grazie, grazie ancora, a presto, grazie. Ciao. Siamo con Giorgio Ginori, direttore della 24esima edizione dell'Isola del Cinema a Roma, all'Isola Tiberina, dal 14 giugno al 2 settembre. Giorgio, ben trovato. Ciao Federico, ciao, un saluto a tutti voi, che gioia ritrovarmi a Onda Rossa. Ci racconti? Allora, guarda, noi abbiamo quest'anno un po' di novità da proporre. Devo dire che già 24 anni fa, che sembra una vita, era il 1995, centenario del cinema, della nascita del cinema, e mi ricordo che allora avevo in mente un verso, un passaggio di un poeta francese, non faccio citazioni, ma insomma, che diceva: bisogna avere il coraggio di essere contemporanei, ok? E sarebbe interessante

per i malati che possono scendere, per gli infermieri, per le maestranze e per le famiglie, e questo mi piace molto, che si riuniscono insieme per vedere un film. E questo mi sembra molto bello e tra l'altro crea una specie di unicum fra il sopra e il sotto dell'isola, perché è chiaro che le istituzioni stanno sopra, parlo di comunità Fratelli, comunità ebraica, comunità di Sant'Egidio, fanno parte di questo unicum che è l'isola Tiberina, l'isola di Roma. Ok, e in chiusura, Giorgio, ci lasci anche il sito internet per tutte le informazioni? Quest'anno ci sono due siti internet, uno è www.isoladiroma.it, www.isoladiroma.it e naturalmente anche il classico sito www.isoladelcinema.com. Ok, allora ricordiamo la 24esima edizione dell'Isola del Cinema all'Isola Tiberina a Roma dal 14 giugno al 2 settembre. Giorgio, un abbraccio, a risentirci presto. A risentirci presto, grazie di cuore, vi aspettiamo, grazie. Siamo con Pedro Armocida, direttore della 54esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema a Pesaro dal 16 al 23 giugno. Pedro, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Ci racconti? Sì, è appunto 54esima edizione, è la quarta di cui sono direttore io, e quindi come dire ogni anno è una sfida anche per rinnovarsi. Il festival, come alcuni sapranno, è un festival appunto storico, nato nel 1975 sull'onda delle nuove onde del cinema e quindi il nostro percorso in qualche modo è tracciato perché ha un passato forte, ma cerca naturalmente nella parola nuovo di trovare le forme, i linguaggi più innovativi del cinema contemporaneo, con lo sguardo sempre al passato, come vedremo tra poco. In questo senso le due sezioni che io chiamo d'avanguardia, anche se è un termine non appropriato, sono quella del concorso internazionale, il concorso Pesaro Nuovo Cinema, e quello legato al cinema italiano che si chiama Satellite Visioni per il Cinema Futuro. Il concorso quindi quest'anno avrà 6 titoli e quando dicevo il nuovo che cos'è oggi nel cinema, un po' casualmente, insieme ai selezionatori che lavorano con me, come Cecilia Ermini, Antonio Torre, Paola Cassano e Raffaele Meale, abbiamo trovato per lo più quest'anno, rispetto al passato, proponiamo più film cosiddetti, un tempo si sarebbe detto documentari, poi cinema della non fiction, cinema del reale, chiamiamolo come vogliamo, io li chiamo naturalmente film. E quindi ecco la particolarità è un po' che questo cinema che racconta in qualche modo la realtà, l'abbiamo visto anche nei festival internazionali che appare e vince a Venezia, a Roma e vincono premi, ecco questo tipo di cinema è in qualche modo forse la forma appunto più attuale per raccontare certe storie, o almeno quello che a noi ci ha emozionato di più, quindi passiamo da un film per dire che era Berlino, uno dei 10 film di Berlino secondo Variety, che è questo saggio teorico su John McEnroe, girato da un francese, è appunto una descrizione di come tutta concentrata solo su McEnroe, non vediamo le partite, vediamo solo lui giocare e con riferimenti anche proprio al mondo del cinema, a come viene diciamo strutturato un film su McEnroe. Sempre parlando di cinema documentario, dall'America, ma girato in Messico, un film secondo me straordinario di due giovanissimi registi americani, Eric Stoller e Chase Whitside. America si chiama, che è il nome di una signora novantenne che viene in qualche modo abbandonata dal figlio e i nipoti si prendono cura di lei. Un film veramente struggente. E poi c'è un film che io chiamo Stellare, perché ha come simbolo il titolo, non ha un titolo scritto, ma è un titolo grafico, cioè una stella, di un austriaco sperimentalista giovane anche lui, che si chiama Johann Lurf, ed è un film girato solo, cioè si vedono solo paesaggi stellari del cinema, con i dialoghi che durante questi passaggi in molti film sulle stelle si sentono. Poi il film, ci sono naturalmente film più narrativi, un film messicano, Los Años Azules, su un gruppo di giovani che vivono a casa insieme, Zerzura, che è un film di un americano ma girato tutto in Niger, una visione surreale del Sahara molto bello, e poi l'italiano è Daniele Pezzi con Biward e Donna Ferentes su questo cantante della scena underground, un film veramente sperimentale. Daniele Pezzi è uno dei nuovi autori del cinema italiano, che già nel 2004 vinse col suo primo film un premio proprio al Festival di Pesaro, da dove ha iniziato. L'anno scorso, e mi collego a questa sezione di cui parlavo prima, che è quella sul cinema italiano Satellite, l'anno scorso era appunto in questa sezione con il suo ultimo film Tiresias. E quindi ecco, si ricollega un po' il lavoro che viene fatto dagli altri selezionatori di Satellite, che sono Anna Maria Ricciardello, Antine Torre, Mauro Santini e Gianmarco Torri, in questo laboratorio che io chiamo Satellite Visione del Cinema Futuro, dove passa il cinema italiano che non vedete e non vedrete da nessun'altra parte, nel senso che un pochino da qualche altro festival, però certo in maniera così organica e ragionata, con una ventina di opere, ecco, è una diciamo, sezione molto particolare e specifica a cui noi teniamo molto. Pedro, più complessivamente volevo chiederti quante opere ospitate e come sarà strutturato anche nelle altre sezioni il festival. Sì, non le ho contate, nel senso che sono due pagine di indice, vedo qui di indice, okay, di film, due pagine piene, quindi credo oltre centinaio, perché proponiamo anche cortometraggi, sì, di cui adesso vi dirò. È strutturato il festival appunto sguardo al presente e futuro del cinema, sguardo al passato, naturalmente a Pesaro è stata la prima manifestazione cinematografica italiana a essere contestata dagli studenti nel 68, ricordiamo i 50 anni del 68 non tanto in maniera nostalgica ma propositiva, e quindi proporremo una serie di film all'interno di queste che sono le lezioni di storia che Federico Rossini, un curatore che lavora a Parigi, ci porta ogni anno, con 5 film extraeuropei, tranne Umano non umano di Mario Schifano, ecco, il resto dei film, Org, Fernando Birri, di Ogni su 69 di Brian De Palma, tutti i film legati al 68 ma con uno sguardo extra europeo. Il passato torna anche con il film d'apertura che è Hollywood Party, anche questo 50 anni dopo e non li dimostra, e una personale di un regista classe 1927 che verrà a Pesaro, pimpante e combattivo, si chiama Marco. Nel 68, torna sempre questo 68, venne a Pesaro portando il suo film che ora proietteremo in edizione restaurata, che è Les Idoles, con Pierre Clementi, con tutto il meglio del cinema francese. E questa è la parte che riguarda il passato. Presente, parte importante, quest'anno il festival dedica un evento speciale, tutto dedicato alle donne del cinema italiano, si chiama We Want Cinema. Sguardi di donne del cinema italiano, lo cura Laura Buffoni, c'è una pubblicazione molto importante, ogni anno Festival pubblica con Marsiglio un libro che noi chiamiamo Verde dal colore del dorso, è arrivata all'80ª pubblicazione in tutti questi anni, questa collana Nuovo Cinema. Il volume raccoglie, oltre a alcuni saggi teorici iniziali, tutta una serie, una quarantina di interviste ad attrici, autrici, produttrici, registe e sceneggiatrici divise per blocchi. Ci sono delle colleghe che, Elena Stancanelli che intervista Liliana Cavani, Piera De Esposta, Elina Malazzi, Francesca Marciano e Anna Negri, per dire, in un capitolo che si chiama Guardare e essere guardate, oppure il titolo è suggestivo, Vibratori e pistole, donne e serie TV. Ilaria Ravarino parla con Maria Pia Calzone, Francesca Comencini, Barbara Petroni, Monica Rametta e Ludovica Rampolti, quindi dal cinema alla TV, alla sceneggiatura, un libro che parla dello stato attuale del del femminile nel cinema, di come appunto senza diciamo genderizzare il cinema, perché non sarebbe giusto, però naturalmente nel libro c'è la pubblicazione dell'ultima ricerca DEA del CNR Donna Audiovisivo, e i dati comunque fanno pensare, diciamo, che ogni anno si contano sulle dita di due mani i film diretti da donne, quindi sì. Al di là del fatto che il cinema non ha naturalmente sesso, però c'è effettivamente non un problema, ma un lavoro da fare, ecco, in questo senso. E quindi a Pesaro verranno a presentare i loro film, a parlare alla tavola rotonda attrici come Sonia Bergamasco, Silvia Calderoni, Tea Falco, che è anche in giuria insieme a Paolo Franchi e a Stefano Savona, di cui faremo l'ultimo film che ha vinto a Cannes, il documentario La strada dei Samuni, perché oltretutto è animato, cioè con le animazioni di Simone Masti e di una quindicina di animatori proprio di Pesaro. Sapete che la Scuola del Libro di Urbino è una delle sedi principali italiane dove si formano gli illustratori e gli animatori italiani. Rispetto al genere, aggiungo che quindi il manifesto che vede una ragazza con videocamera è anche questo una sottolineatura, insomma, dell'importanza del genere in questa edizione. Sì, è giusto, hai fatto bene a dirlo, che parlavo di illustratori e animatori, ecco, della zona di Pesaro già ha questa peculiarità, quella zona che produce, nel senso promuove e esporta artisti, e abbiamo affidato l'illustrazione del manifesto ad Alessandro Baronciani, che appunto anche è molto legato al mondo della musica, ha fatto le copertine di Baustelle, di Tre Allegri Ragazzi Morti, di altri artisti, e insieme, parlando insieme, lui utilizza questo metodo di parlare col committente. Io ho detto: sei libero di fare quello che vuoi, c'è un tema femminile forte, ma fai tu. Dice: no, ma voglio parlare con te. E vabbè, parlando è uscito fuori una specie di di ragazza, di Alice, che cresce a dismisura dentro il cinema, diciamo un po' sfondando le sedie e le cose. E ripensando, guardando questo manifesto, effettivamente, anche se uno vuole trovare una metafora, naturalmente è un po' una metafora anche della donna nel cinema italiano, che non trova il suo spazio, no? Non trova come muoversi. Bene. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la 54esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema a Pesaro dal 16 al 23 giugno. Pedro, in chiusura ci dai tutti i riferimenti web? Sì, visto che tu sei molto attento anche alla musica, dico solo che ci sono poi a mezzanotte 5 serate di sonorizzazioni di come Paolo Spaccamonti, Ramon Mora, si pronunciano, Daniele Brusaschetto. Vabbè, il festival a mezzanotte, diciamo, esplode ancora con immagini e suoni. È tutto su www.pesarofilmfest.it e su tutti i social, basta cercare Pesaro Film Fest. Un abbraccio e un ringraziamento al direttore Pedro Armocida. Pedro, a risentirci presto. Grazie a voi. Siamo con Mario Sesti, curatore dell'Extra Doc Festival, per presentare la proiezione dei vincitori del festival al Cinema Savoy di Roma dal 12 al 26 giugno. Mario, ben trovato. A voi, grazie come sempre della vostra gentile e accurata attenzione. È sempre un piacere. Mario, raccontiamo intanto, partiamo dall'Extra Doc Fest, raccontiamo cos'è. Insomma, come qualcuno ricorderà, Extra era stata una leggendaria sezione della Festa del Cinema di Roma, che poi per tutta una serie di motivi si è trasformata in qualcosa di diverso, che non ha più avuto la possibilità di ospitarla. E una delle sue caratteristiche era quella di aver reso, credo, una certa notorietà presso il pubblico di Roma il documentario, il genere documentario. I documentari oggi non sono più noiosi esercizi in bianco e nero con una voce che snocciola dati di un professore universitario fuori campo, ma sono dei film che possono essere anche molto avvincenti e soprattutto, come tu sai bene almeno quanto me, possono essere dei film che usano anche gli strumenti tradizionali della finzione, come la musica, la scrittura, la sceneggiatura, a volte anche la recitazione, per non parlare della fotografia e dell'animazione. Certo. Questo ha fatto sì che si rendesse necessario, secondo me, un presidio in cui soprattutto il documentario italiano, almeno nella capitale, potesse trovare una sua casa. Io lavoro al Maxi da diversi anni e quindi ho promosso loro di fare proprio un vero e proprio festival del documentario italiano, che naturalmente è una vocazione indipendente. Tutti i film che non hanno la possibilità di essere distribuiti, che non hanno dietro la promozione di grandi nomi o di poteri forti del cinema, diciamo così, possono naturalmente partecipare alla selezione, che è composta di 12 film, 6 editi e 6 inediti. C'è una giuria popolare, e questo credo che possa interessare anche i nostri spettatori, nel senso che c'erano persone semplicemente appassionate, sì, oppure dei frequentatori delle biblioteche di Roma, perché tutto è stato fatto insieme al sistema bibliotecario. C'era anche una giuria ufficiale dove c'erano anche nomi come Susanna Nicchiarelli, Christian Raimor e addirittura il direttore del Maxi, Warru. Insomma, per fartela breve, alla fine un sistema piuttosto combinato di premiazioni tra la popolare e l'ufficiale ha scelto questi 3 film, e poi uno dei premi era che una distribuzione commerciale, addirittura la Filmauro, quella di De Laurenti, metteva a disposizione la sala, una delle loro sale più belle, sicuramente cioè, da poi una delle più belle a loro disposizione, per un programma che vedesse addirittura questo cinema indipendente documentario programmato in una vera e propria sala. Questo ha fatto sì per l'appunto che per i prossimi 3 martedì successivi ci saranno questi 3 documentari, il primo dei quali io sono Tommaso, e mi chiamo Tommaso, di Amedeo Fago, che racconta tra l'altro una storia, consentimi solo 30 secondi, è la confessione di un adolescente che ha avuto dei passati di tossicodipendenza, fatta con straordinaria passione, franchezza e anche umanità. Purtroppo è successo che proprio mentre lo programmavamo, la persona che ne era protagonista è stata l'oggetto di un incidente che non ha nulla a che fare con la tossicodipendenza, perché è stato investito in piena notte da un signore ultra ottantenne, e quindi purtroppo tuttora adesso in condizioni non positive. Tutto questo rende naturalmente la vicenda del documentario straordinariamente toccante. Poi il martedì successivo ci sarà una biografia di Remo Remotti, che è un genius loci della romanità, della teatralità, dell'arte a Roma tra gli anni 70 e gli anni 2000, che si chiama Ho rubato la marmellata. E infine c'è Diorama, che è un documentario, un film veramente interessante, perché il documentario c'è anche questa, no, Federico, l'idea che ci sia una ricerca, quindi cosa sì. Guardano, cosa vedono, cosa sentono di noi gli animali, e quindi attraverso l'analisi di animali che ormai sono sempre più dentro le nostre case, come o vicino, non le nostre periferie, come le rane, i rospi, i volatili, si ricostruisce lo sguardo degli animali, cioè la capacità in qualche maniera di immaginare come siamo visti da quelli che sono completamente altro da noi. Sì. Sono tutti e 3 film, secondo me, per cui vale davvero la pena per uscire di casa e parcheggiare la macchina e staccare un biglietto che è di solo 5 euro. Mario, in questi 3 martedì ci sarà anche l'incontro degli autori con te e con il pubblico. Of course, naturalmente. ci sarà una breve intro, un po' come si fa nei grandi festival, come dalla Canzen, e subito dopo, a richiesta, ci sarà la possibilità di fare un Q&A, quindi domande e risposte, oppure addirittura di appartarsi con l'autore e chiedergli direttamente delle cose. Quindi il servizio è completo, così come nello stile, diciamo, popolare della festa del cinema e delle sue attività ancora più durante l'anno. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con i 3 documentari vincitori dell'Extra Doc Festival al Cinema Savoy di Roma dal 12 al 26 giugno, i 3 martedì 12, il 19 e il 26. Alle ore 21. Alle ore 21, benissimo, con alla presenza degli autori. Mario, in chiusura, lasciaci tutti i riferimenti web. Beh, naturalmente basta andare sul sito della festa del cinema, ma anche sul sito del circuito My Cityplex, che è quello con tutte le sale della Filmauro. Quindi basta andare sul sito del Savoy o sul sito della festa del cinema per trovare non solo tutti i dettagli, ma anche tutti i testi, il cast, il credito, anche una trama commentata per ciascun documentario. Mario, un abbraccio e alle prossime novità. Grazie, grazie a voi, a presto. Siamo con Andrea Chimento, direttore della seconda edizione del Long Take Interactive Film Festival.